pronto? Fiato sospeso? Si comincia! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. E come battizzo, contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'Ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello Sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato. Maga Maghella, Maga Maghella, se ti va brutta, se ti va bella, nel tuo futuro leggerà. Maga Maghella, Maga Maga, con la bacchetta, Maga Maga. Allora io volevo dirti adesso vi racconto di Lotito, vi faccio sentire la maga, Zenga, la maga. Meraviglioso, però io volevo, cioè, una mozione per non cominciare il programma se la signora Fausta Pardo non viene a raggiungerci. Ci ha appena abbandonato, è qui in visita all'Expo, è grande ascoltatrice. Adesso la facciamo no, anche no, dai, adesso va bene l'autoreferenzialità, ma ci sono dei limiti, eh? E perché non il signor Leo allora, eh? Il signor Leo, ecco. 800 24 0024, anche oggi per Luigi Pardo con noi a Expo, saremo qua tutta la settimana, domenica compresa. Ma che cos'è questa borata degli applausi finti? Ah no, chi è? Uno fuori col ghiaccio? Beh, straordinario, Però sembravano applausi finti, sai, tipo le telefilm americani che c'è Arnold. Mi rifai un attimo il ghiaccio, vediamo se entra nel microfono. È un momento ecco. Entra qualcosa? Entra. Più o meno. Sembrava comunque, tipo l'applauso. Expo Cibus Italia, siamo qua e se veniteci a trovare, veniteci non a salutare. Benjamin. Non c'è Benjamin oggi, eh? Non c'è Benjamin, con i suoi cartelli professionali. Margherita Aina, Michele Previato con noi, c'è Davide Cioccia, Giorgio Duca, il nostro autore in regia. Insomma, tutta la solita banda. Se venite a trovarci, vi regaliamo anche una maglietta di Radio 24. Ecco. Ecco, anche a voi due che siete passati, ma se sono passate, non so se sei notato, no, due ragazze della... Devi andare da una maga, sì, suggerisce Lotito, non una qualunque, ma dalla maga di fiducia di Lotito stesso, la maga Stefania di Roma, l'abbiamo anche cercata, eh? Specialista in esoterismo, esorcismi e macumbe. Una laureata che fa anche la chirurgia, me l'ha consigliata un prete amico, ha detto. Beh, io adesso non ci credo, però la stagione di Lotito dal punto di vista calcistico è stata da sogno, fra Lazio, Salernitana. Lotito la considerava più importante di Felipe Anderson, scrive Marco Mensurati su Repubblica. Pulviretti segue la dritta, va a prendere la signora Stefania a Roma, maga, la porta a Catania, vince contro l'Avellino e organizza persino un rito di purificazione dello stadio. Ed è proprio in quei giorni, guarda te la sfiga, che le cimici della polizia intercettano questa telefonata imbarazzante di gratitudine totale di Pulviretti a Lotito, ma non perché si era adottato qualche partita, perché gli aveva consigliato la maga. Hai capito? Il calcio è questo, adesso, a parte tutto. Occhio con occhio, prezzemolo e finocchio. Fa ridere, non ci sono dubbi. Però io mi ricordo Costantino Rozzi con col sale, mi ricordo Anconetani, le scaramanzie. Quindi insomma, dai, ci sta tutto, al di là degli aspetti invece più gravi di cui ci siamo occupati lungamente in questi giorni. Ma oggi parleremo di questo, ma anche di molto altro, all'800 24 00 24. Pallone, ieri mi sono dimenticato di dirlo, durante la trasmissione con i suoi potentissimi mezzi Pardo mi faceva vedere il nuovo pallone della Serie A. C'è uno che scrive, il pallone che era rosa per la Serie A, ottima scelta, uno sgarbo a Tavecchio, Gaetano da Verona. In effetti dire, il pallone della Serie A bruttino, eh. Ecco, non me ne vogliano quelli di Nike, anche perché poi c'è quella, no, purché se ne parli. Ecco, il pallone, tra l'altro, è stato fatto in 3 edizioni simili, cambiano soltanto i colori: Inghilterra, Spagna e Italia, per celebrare i 3 campionati più importanti. Giallo e Spagna non è male, Inghilterra sul rosso, noi abbiamo questa rosa che fa un po'. Direi che il Palermo a questo punto è strafavorito per il titolo di campione d'Italia. Però bello il pallone! Att- attenzione, chiedo scusa a tutti, allora, i palermitani per la pessima imitazione. C'è, allora, c'è Lotito che consiglia la maga Pulvirenti, ma c'è anche, c'è anche Zenga che per così per benedire la stagione della, della Sampdoria ha portato la squadra al Santuario Mariano della Guardia. Vabbè, siamo venuti a rendere grazie e non a chiedere niente, ovviamente. Rendere grazie alla Madonna è sicuramente un sentimento positivo, ripeto, che nessuno pensi che uno viene a chiedere qualcosa, bisogna lavorare, bisogna fare le cose e poi ti vengono date, ma era solo un modo per iniziare la stagione in maniera corretta. Insomma, aiutati che il Celta aiuta. Beh, però Zenga se l'è giocata bene sul piano della comunicazione. Cioè, questa frase che abbiamo sentito è perfetta, nel senso, certo, che comunque al di là degli aspetti, al di là della religiosità delle persone, che può essere maggiore o minore, ognuno fa quello che vuole, però ringraziare il Dio, il destino, chissà chi, come direbbe Ligabue, della bellezza dell'essere dei ragazzi di 25 anni che giocano a pallone in Serie A, di 30 anni, di quello che è, ricchi, senza problemi economici, con insomma dei fisici di livello, e di avere così tanta attenzione attorno e così tanto calore e così tanta passione. Ecco, se Zenga gliel'ha comunicata così da motivatore, secondo me ha fatto bene. Sì. Poi sai, la Madonna della Guardia a Genova è un classico, sì, un po' come San Luca a Bologna, sono quei luoghi, no, nei quali si mescolano sacro e profano, quindi non ci vedo niente di male. Poi insomma, andare dalla Guardia, molta comunicazione, sì, in tutto questo, cioè, molto aspetto mediatico. Paese cattolico questo, eh? Sì, sì. Mi ricordate, cioè, tanto la coppia Vianello Tognazzi? Beh, insomma, veramente la premessa, scusate, la bestemmia, appunto, appunto. Stiamo parlando di due grandissimi. Ti faccio sentire un'altra voce, che è quella, sai, ormai Ferrero fa parte dell'arredamento della Zanzara molto spesso. Ieri ha detto una cosa su Pulvirenti. Ah, è intervenuto? Ieri non ho sentito la Zanzara. Eccolo. Questo signore io non lo conosco, però questo signore deve essere radiato dal calcio, perché il calcio è sport. Certo. Il calcio stiamo cercando di fare, non c'è, che, di portare le famiglie, di vedere, ti diverti, emozione. E come cazzo si permette questo a fare queste cose? Deve essere radiato. No, ma questo su questo c'ha ragione Ferrero. Cioè, ma... radiato, io lo voglio sempre questo discorso. A me mi fanno schifo questa gente. Perché non cerchiamo di non sporcare la cosa più bella del mondo. Bene. Beh, insomma, toccata piano. Beh, ma il ragionamento ci sta. Sì, sì, no, ma sono d'accordo con Ferrero. Io, tutta sono la linea. Tutta la vita, Totalmente. Sarchio, Sarchio, va bene. Tornata la signora Fausta. Se no, dai, dai, ma che dobbiamo fare? Ma che momento è? Ma sta benissimo lì. Guarda, adesso va a vedere. Va a vedere, ecco, lo stand dell'Austria, vuole vedere il bosco, traffico. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Tutti convocati. Tutti convocati. Frank De Boer contro Francesco Toldo, ha già parato a Frank De Boer un rigore. Parte De Boer, la sua rincorsa, para Toldo! Per la seconda volta su Frank De Boer, prima dei tempi regolamentari, adesso i calci di rigore, Toldo neutralizza. Quarto rigore olandese, Bosvelt, la palla parata, finale, è finita, siamo in finale, Toldo ha parato anche su Bosvelt, incredibile. Dunque, ricorrono 15 anni da quella... E due giorni, per essere precisi. 29 giugno, giovedì, 29 giugno, c'ero, 2000. Con mio padre, oggi ha giocato autoreferenziale, con mio padre. Uno dei ricordi più belli, sai, proprio, sai del rapporto... Ecco, ero con Leo. Sai il rapporto padre-figlio, sì, no? L'iniziazione, la prima volta che tuo figlio ti porta... Tuo padre ti porta allo stadio. Insomma, sono stati scritti i temi su questo. Quel giorno, casualmente, perché i miei abitavano a Liegi, andammo a vedere questo Italia-Olanda e me lo ricordo come una delle emozioni più belle, più forti, più clamorose, perché chiaramente meritavamo di perdere, l'ha detto, sì, insomma, sì. E poi è una semifinale che in qualche modo è stata un po' come Italia-Germania 4-3, sì, nella storia, no? Nel senso che comunque una semifinale che vale quasi come una finale, anche se poi la finale c'ero pure lì, però mancava Leo, vedi? Se fosse okay. stato Leo magari avremmo vinto pure quella, sempre per tornare alla maga. Compreso Francesco Toldo. Ha fatto cosa qualcosa detto, di cosa più, ha detto Leo di Francesco Toldo? Ma no, beh, era impazzito. Era una cosa, guarda, mi vengono le lacrime agli occhi, perché era veramente, perché poi era, giocavamo fuori casa, tutto lo stadio arancione, sì. insomma. Nettamente sfavorito. Ciao Francesco, come va? Ciao ragazzi, ma io vi ascolto, ma che ne sapete voi di calcio? Ma sapete qualcosa di calcio? No, zero. Ma non abbiamo problema ad ammetterlo. Quanti ne parli il giorno 7, 8, 9? Sono stati carini, perché tante persone me l'hanno ricordato. Io, fatalità, avevo anche superato il quindicesimo anno. E mi ricordo, guarda che 15 anni hanno fatto qualche articolo. Grazie, è piacevole, grazie ragazzi. Ah, grazie a te, grazie a te che ci hai regalato una cosa. È stata una partita mitica, magica, ed è in testa e nella mente di tantissimi tifosi sportivi che mi incrociano per la strada, ma mi ricordo quella partita. E poi hanno legato anche al discorso che facevate voi due, ricordi da ragazzo con i genitori che hanno portato a vederla. È stata mitica. Sì. Mm-hmm. È stato il tuo giorno più bello in carriera? No, ti dirò, non voglio sembrare presuntuoso, ma per me, o come per tanti altri portieri, o per tanti altri giocatori, oppure sportivi, è stata la normalità, ovvero ci si allena ogni giorno per avere un certo tipo di risultato. È venuto che hanno sbagliato, hanno tirato 6 rigori, ne hanno fatto uno, e quella è stata la cosa strana. La strana. Sì. Beh, però c'è stato anche il tuo merito, non è che... hanno sbagliato, qualcosina hai fatto, no? Non è che sì. Vi confido che la sera prima avevo immaginato tutto. Immaginato tutto, ragazzi. Sì, sì. Ed è stato come l'immaginazione, l'avevo portata, l'avevo quasi, mi ero autoconvinto. E questo va anche per voi. Immaginatevi una trasmissione sportiva. La immaginate così e cavolo, viene come l'avete pensata. Così è stato, uno scherzo, non è che vi dico delle cavolate. No, ma assolutamente. Ma è così, ma. Ma anche Cucchiaio Ritotti avevi immaginato oppure. No, quello l'aveva deciso all'ultimo. Quella è. No, poi l'aveva detto ai giocatori in mezzo al campo, e moglie faccio un cucchiaio e poi per lì faccio fuori il cinema che è finito. Sì. Meno male che Van der Sar, in realtà l'italiano lo sapeva, ma non avrà sentito la parola cucchiaio. No, non avrà capito. Quelle partite che riaccendono l'amore per dei tifosi nei confronti di una nazionale, capito? È stato veramente bello, da brividi. Me ne sono accorto dopo col tempo. No, ma che è chiaro che lì per lì c'è, domina l'adrenalina. Torna in porta. Cosa adesso, no? Cosa fate di bello lì? Ma noi siamo qui all'Expo, la temperatura fuori è 36,6 gradi. Dentro lo studio è sui 30. Quindi. Dentro lo studio è sui 30. Quindi l'aria condizionata, allora siete. Sì, siete bene, vai. Siamo a posto. Che fai in Germania l'11 luglio? 11 luglio. Oh, 11 luglio? Grazie dell'assist. Dovete sapere che l'Inter ha una squadra in più. Qui se li fanno per la prima squadra, ovviamente c'è la primavera e tutto il settore giovanile, ma esiste anche Inter Forever, che da 3 anni rappresenta l'Inter, e sarebbero gli ex giocatori che hanno almeno militato una volta nell'Inter, ce ne sono parecchi, passano, sì, il centinaio lo passano, e chi può giocare a calcio, che è ancora in forma, quindi sulla quarantina, 45, e infatti andremo a giocare all'Allianz Arena l'11 luglio, il Bayern di Monaco contro Bayern di Monaco All Stars, e ci sono grandi giocatori, c'è Patrick Vieira, c'è Giorgio Karagounis che è attualmente presidente della Federazione Greca, Olivier Dacour, Ivan Cordoba, Zanetti, parte apposta dall'Argentina, è la squadra in più che ha l'Inter. Chi gioca in attacco? Callone, Suazo. Gente che è ancora in forma, abbiamo pareggiato a Madrid 2-2 l'anno scorso, l'unica squadra che ha pareggiato a Madrid, gli altri prendono 4-5 papine. È divertente perché ci no, ma non ho dubbi, Francesco. Ma sai cosa? Prima parlavo con Pierluigi e dicevo, cioè, anche Juventus Legend giocherà col Boca Juniors. Insomma, ci sono queste realtà che. A me che stupisce, lo dicevo prima a lui, è che riescono a riempire gli stadi come neanche le partite di campionato. 70.000 biglietti venduti, a parte che il Bayern di Monaco organizza l'evento di presentazione della loro prima squadra, a parte questo, significa che loro fanno un allenamento proprio vero e proprio, e cosa combinano dopo? Fanno un evento, la gente, cioè cantanti, gente dello spettacolo, e abbinano anche la partita degli ex. In questo caso noi dovremmo essere tra virgolette la vittima verticale, in realtà non lo saremmo, e davanti a 70.000 spettatori che rideranno perché non è che abbiamo più il fisico. No, certo, però ma guarda che negli ultimi 20 anni, diciamo, se vogliamo vedere dal punto di vista colto, alto, letterario, da Nick Corby in poi, il calcio ha vissuto in Europa una rinascita dal punto di vista culturale, nel senso che oggi esiste, e lo possiamo dire a testa alta, l'orgoglio di essere appassionati di questo gioco. C'è tutta una serie di eventi culturali, ovviamente di cultura pop, non di cultura alta da libri di scuola, ma di cultura che però fa parte del vissuto delle persone, e credo che iniziative come queste facciano assolutamente parte del gioco, e sono in qualche modo una misura e un termometro del fatto che il calcio, nonostante le brutture, va avanti. A proposito di questo, a proposito delle brutture, sì, da uomo di calcio, quando leggi certe cose, i treni, sono i cavalli, sono schifato. Devono capire di non essere egoisti, di non essere ingordi, e l'economia, i soldi portano ad essere l'uomo che vuole sempre di più di quello che ha. Si deve imparare a stare più con la gente normale che vive tranquillamente, capito? E si accontenta. Queste cose purtroppo fanno sì che l'uomo, in senso lato, cada nel tranello dell'egoismo o dell'avidità, e soldi portano soldi. Io trovo, sono schifato. Il primo che si avvicinava a me e che mi diceva qualcosa prendeva le schiaffe, non si avvicinava più. Perché sanno dove andare, ok? Certo che sanno dove andare. Senti, però Casillas, con questo la critica deve essere fatta anche al sistema calcio, che deve avere un autocontrollo, un'autogestione. Non si può andare dalla magistratura per capire come funzionano certi meccanismi. I dirigenti devono fare i dirigenti, devono controllare, se sono i loro primi, i presidenti, anche se sono loro, devono controllare e vigilare. Questo non sono d'accordo, una cosa del genere. Infatti la responsabilità oggettiva può avere un senso da questo punto di vista, perché nella tua società tu devi sapere quello che sta succedendo, quindi una forma di responsabilità da questo punto esiste, e da questo punto di vista esiste, senza togliere la responsabilità individuale, che quella deve assolutamente essere sanzionata. Ma il merito sportivo deve essere legittimato sul campo, non deve essere preso a parte. Questo, ma con questo, dove ci sono i soldi c'è corruzione. Tanto più bisogna vigilare, cavolo, ma lo dico con un dispiacere, perché gli atleti rappresentano un simbolo nei confronti dei ragazzi. Fortuna vuole che io lo sono stato, e me ne vanto di esserlo tuttora. Me ne vanto. Assolutamente. Senti, c'è chi da Firenze ti scrive se ti ricordi di Arsenal Fiorentina. Magari carino, qualcuno ma pensa... ricordo questo. Siete proprio Marco. Senti, Casillas è ancora pronto secondo te? Si è parlato di Roma in questi giorni. Faresti una scommessa su di lui? Fossi una società italiana? Una scommessa. Bisogna vedere le motivazioni che ha questo ragazzo, perché cos'è, sulla 36, quanti anni ha adesso? 37? Sì, 36 mi pare. Devi vedere dentro di lui, perché tecnicamente il ragazzo c'è, lo ha dimostrato, però ha avuto tutto dall'ambito sportivo. Deve capire lui, o come, chi lo vuol prendere, le motivazioni, che è l'unica cosa che fa la differenza, soprattutto per un portiere. Se hai motivazioni vai, se non hai motivazioni sta a casa, che è meglio, eviti brutte figure. In realtà sono 34, sono 34, quindi ecco. Potrebbe, però, sì, però per nel quello. Dire 36-37 io capisco che ne ha vissute talmente tante, ne ha vinte talmente tante, è stato talmente precoce che l'età, diciamo, l'età calcistica è quella di un quarantenne, come quantità di cose che ha vissuto, no? E quindi credo che la motivazione sia la chiave. È difficile giudicare, perché uno non conosce il ragazzo proprio com'è, perché come Javi Zanetti, che corre fino a 40 anni, compralo. Lui continua a correre, vuole fare il capitano, ragazzi, bisogna dargli la fascia, altrimenti sarà Se no non gioca, ti salutano tutti, ti salutano tutti, chiedono se Matteus fa un tempo per squadra, saluti da Padova, ti chiedono se Caraguri svuota per Tsipras. Telespettatori che seguono le attività o le vicende di Inter Forever, e le trovano nel sito dell'Inter, che è una squadra in più, capito, che riesumiamo un attimino. Francesco, un'ultima cosa, secondo te l'anno prossimo ci divertiamo di più in campionato? Ma guarda, io penso che il fondo l'abbiamo toccato, e però la ricostruzione passa attraverso una serie di anni di programmazione. Io credo nelle persone. Quando il presidente Toier dice -3-5 anni vorremmo portare l'Inter dove merita, quindi a livello di altre società internazionali, io ci credo. Come credo che un giocatore possa valere determinati soldi, anche se reputo che siano tanti, però i dirigenti sono a fare il loro lavoro all'Inter, di conseguenza diamogli fiducia anche a questo allenatore, certo, a questo presidente, diamogli almeno il tempo. Il presidente Moratti ha dimostrato cose incredibili, sacrificando tantissimo. Questo signore è arrivato l'altro giorno, il giudizio in Italia è facilissimo, diamogli il tempo. Quindi le persone che criticano, ma stiano un attimino zitte, perché questo ha investito e ha cambiato il mondo, è venuto dall'Indonesia all'Italia per capirci qualcosa, e gli vogliamo dare del tempo, no? Assolutamente. Secondo me l'Inter lo riporterà in alto, i tifosi saranno contenti. Grazie Francesco. Ehi, sì. Basta, a posto? Sì, no, vai pure, non ti voglio interrompere. Volevo fare un applauso ai tifosi, perché nonostante questi ultimi 3-4 anni di magra, sono sempre stati vicino alla squadra, mai contestazione, mai queste cose lì, stati vicini. Per esempio, ubriachi ancora del 2010, Assolutamente. Grazie. Ciao Francesco. Ci vediamo l'11 luglio. All'Allianz Arena. Grande derby fra Matheus Karagounis su situazione di Grecia. Ci scherziamo sopra, È una situazione molto seria. Andiamo sulle borse. Borse, grazie. Toldo, rimani in linea. Borse, eccolo. Ma sapete qualcosa di calcio? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Convocati. Otto zero zero ventiquattro zero zero ventiquattro. C'è Fabrizio D'Ancona, ma c'è anche Marco Belinazzo. Belinazzo non è qui a Expo. Sono in studio, ho occupato lo studio. Senti che voce. Sono al tuo posto, Genta, seduto. Davvero? Un'emozione eccezionale. Senti, ma Tsipras quindi che fa? Ma perché mica parliamo di calcio oggi? Vabbè, ma adesso parliamo, aggiornamento veloce. Guarda, la situazione è simile a quella che si sta vivendo in Lega Pro, dove si è chiusa, diciamo, la prima tornata di iscrizioni e ci sono, ahimè, tantissime squadre che non hanno presentato la fideiussione, quindi bisognerà pensare anche a come salvare queste squadre oltre alla Grecia. Fanno il referendum anche lì fra i tifosi? Penso di sì, che una bella autotassazione dei tifosi. In molte realtà c'è per esempio l'Ancona, dove sta nascendo una bella iniziativa di supporter trust, di azionariato popolare, e forse sono le uniche formule che ormai possono permettere a certe realtà di provincia, insomma, di resistere nel calcio italiano. Altrimenti dispiace dirlo, ma chiamiamola Merkel, e chi non ha i requisiti farà un'altra cosa. Diciamo che forse sarebbe stato meglio non bloccare i ripescaggi da subito, per fare un po' di ordine e ridurre, diciamo, al massimo a una sessantina i club professionistici in Italia. Solo Russia e Brasile ne hanno di più, ma noi facevamo davvero filotto qualche anno fa, quando avevamo 132 squadre professionistiche, insomma, in un paese di appena 60 milioni di abitanti. Però erano altri tempi, dal punto di vista economico. Appunto. Senti, c'è Fabrizio D'Ancona, però stai lì, Benignazzo. Mi piace, certo, questo Benignazzo che è bello, perché è come una voce che incombe. Fabrizio. Prego. Buongiorno, è un mesetto che non vi sentivo, dopo vado in astinenza, ho bisogno di chiamarvi. Innanzitutto complimenti come al solito per la trasmissione, e già basta solo sentire l'inizio della trasmissione di oggi. Io dico solo una cosa: se voi due andate in Grecia, la fate diventare meglio della Germania come economia. Dovete fare cose a livello scatenato. Siete troppo i numeri uno, non so, io per voi c'ho una specie di venerazione. Dopo un mese, se non vi sento proprio il bisogno fisico di chiamarvi. Astinenza. 800 24 0024. Vieni a Expo a trovarci. Prendi il treno, vieni. spesso non si parla mai della realtà delle squadre più piccole, adesso col discorso di Conte che è indagato come tecnico nazionale. Cioè, io un po' frequento il calcio anche nella mia regione, e gran parte delle società non c'hanno fiduzioni o cose per... Noi abbiamo una situazione del calcio che diceva lei Genta ieri, che non sapremo dei calendari, queste cose qui. Cioè, io penso che sia ora un attimino di fare delle leggi categoriche. Cioè, ieri sentivo Palazzi che diceva forse non sapremo fare il calendario, ma no, cioè non è che... cioè, bisogna decidere all'istante, cioè eliminare chi va eliminato, fare i gironi, fare il calendario, sempre forse non sapremo fare i calendari, squadre giudice, o le fai partecipare o non le fai partecipare. Ma questo clima è il concetto. Si sente poco, però il concetto è chiarissimo. Berinazzo vuol dire qualcosa? Mi sembra che ci sia un evidente nel paese, mi verrebbe da dire, un evidente desiderio di chiarezza. No? Assolutamente, guarda, stavo appena parlando, citando il caso Ancona. Fabrizio D'Ancona ci ha chiamato proprio da lì, dove sta nascendo questa realtà, ma dopo che ci sono stati tantissimi fallimenti, una squadra che pure aveva conosciuto i fasti della massima serie. Ed è chiaro che ci presentiamo ora tra problemi economici, mancate fiduzioni, che significa semplicemente squadre che non ce la fanno economicamente a reggere il peso dei tornei ai quali vorrebbero partecipare, inchieste calcio scommesse che si intrecceranno tra giustizia ordinaria e quella sportiva, con necessità di sostituzione, ripescaggi anche certo, lì con regole che bisognerebbe definire meglio, e ci troviamo appunto giustamente in una situazione in cui la gente piuttosto che innamorarsi di questo calcio prima o poi staccherà completamente. Sì, staccherà, o bisognerà prima o poi staccare anche il respiratore artificiale cui sono aggrappate anche queste società. Cioè, è un discorso impopolare, brutale magari, però insomma io sono dell'idea che chi può iscriversi si iscrive e gioca, chi non può iscriversi non si iscrive, ripartirà da altri campionati, come è successo in altre realtà anche importanti, in altri sport. Non puoi continuare a tenere artificialmente in vita certe realtà che non si possono fare. Carlo, è stato fatto, ed è stato fatto consapevolmente, perché quando nel 2007 appunto, per esempio, sono stati cambiati i criteri di ammissione e di iscrizione e si è scelto di individuare soltanto riferimento al puntuale pagamento di stipendi e ritenute IRPEF, è successo cosa? Che le squadre anche in massima serie hanno iniziato a non pagare più i fornitori, perché quello non veniva considerato, e hanno continuato anche in disequilibrio economico ad andare avanti, perché erano stati cambiati i criteri. Ora la FIGC vorrebbe reintrodurre criteri seri, però come si fa all'italiana? E si dice vabbè, da quest'anno, però quest'anno non si applicano, lo facciamo dall'anno prossimo, blocchiamo i ripescaggi, ma lo facciamo dall'anno prossimo, perché se no intervengono i TAR, se no intervengono. Però a questo punto insomma c'è bisogno anche di un intervento non solo del CONI, ma la GO mi sembra che voglia commissariare la Lega Pro e voglia intervenire. È giusto che lo faccia, insomma, forse si è perso anche troppo tempo. Quindi molti continuano a farsi mantenere. Il governo deve fare la sua parte, insomma, altrimenti facciamo la fine della Grecia dal punto di vista calcistico. Molti continuano a farsi mantenere. E, senti una cosa, fair play finanziario c'è ancora o non c'è più? Abbiamo scherzato? No, c'è il fair play finanziario, c'è. Molti so che hanno scritto... ho letto quella sentenza come se fosse stata tana liberi tutti, insomma non è così, semplicemente quel ricorso fatto dai procuratori che avevano scelto peraltro l'avvocato Striani o Striani, che a dir si voglia, quello della famosa sentenza Bosman, puntava a cancellare l'intero fair play finanziario. Il Tribunale di Bruxelles ne ha invece bloccato una parte, cioè quello che prevedeva dal prossimo triennio la soglia massima di deficit ammissibile a 30 milioni anziché a 45. La UEFA ha fatto ricorso, quindi se dovesse perdere anche in secondo grado la UEFA, semplicemente si troveranno bene quelle squadre che hanno un deficit da 30 a 45, perché saranno salve, non avranno sanzioni in quanto il deficit rimarrà a 45. Ma in ogni caso c'è già un processo molto avanzato della UEFA per rivedere alcune regole del fair play finanziario. Ne abbiamo parlato spesso anche con te, Pier, no? Del rischio di cristallizzare il sistema che è un effetto combinato di come è organizzata oggi la Champions e del fair play finanziario, ma sarebbe lungo spiegarlo. In ogni caso, tra poche settimane la UEFA appunto farà sapere quali sono queste nuove regole che dovrebbero favorire sostanzialmente i nuovi investimenti. Ecco, quando arriva un nuovo proprietario, quando un nuovo proprietario ha voglia di investire, potrà in poche parole andare dalla UEFA, proporre un piano triennale o quadriennale in cui individua i costi, questi investimenti, i ricavi che si prospettano, e potrà quindi superare le soglie che attualmente sono previste. Questo perché appunto si deve arrivare a un gruppo di luxury task, come succede nell'NBA, o comunque un'eccezione al tetto salariale. Sì, lo trovo giusto. Di per arrivare insomma a 10-15 squadre che possano poi competere veramente per la Champions e non le solite 5-6. Certo. Francesco Bari, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire sul calcio scommesse e fare un po' il ferrero della situazione. Ma Andrea Mattiello non andrebbe radiato? Ragazzi, è stato discorso moralmente parlando, quello che succede, io e Genta siamo per la radiazione. Per la radiazione, cioè secondo me chi vende una partita, si compra una partita o fa quel genere di cose, non merita, non ha i requisiti morali per continuare a giocare. Questa è la mia idea. E anche per il risarcimento dei danni, esatto, che li riduca, esatto, in mutande. Detto questo, Masiello è stato indagato, condannato e ha pagato, e quindi poi alla fine è chiaro che faccia effetto e faccia male soprattutto ai tifosi del Bari, che magari ripensano a quel Bari Lecce, a qualche altra partita, a rivederlo giocare da un'altra parte d'Italia, però dal punto di vista del diritto ha scontato la sua pena. È come quando uno passa un periodo di tempo in carcere o paga un'ammenda, paga una multa, e poi alla fine dal punto di vista della giustizia e della magistratura torna a essere libero. Questo è il principio che riguarda le vite di noi tutti, in generale sul principio. Per me sono d'accordo a questo punto di vista, anche con quello che diceva Ferrero ieri sera alla Zanzara. Ci chiedono Beninazzo, sono in tanti che ce lo chiedono, io non voglio essere evasivo. Aspetta che c'è il traffico. C'è il traffico, poi parliamo di Ferrero, della Samp, dei conti della Samp. 45. Torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Eccoci, allora Beninazzo, siccome in tanti ce lo chiedono, e comunque il tema qualche giorno fa c'è stata quella notizia che aveva turbato i tifosi della Samp, qui ci chiedo testualmente: il vostro amico Ferrero chiede a Beninazzo se ci sta mettendo i soldi o è solo un giullare, scrive Daniele da Treviso, adesso al di là insomma della forma colorita, lì com'è la situazione? Allora, no Pier, io voglio essere, diciamo, attenermi alle mie regole deontologiche, insomma, è il caso di dire. Io non ho ancora avuto modo, diciamo, di guardare nel dettaglio il bilancio della Sampdoria in questi giorni per una questione proprio di tempo, ma non voglio con questo sottrarmi alla domanda. Sicuramente Ferrero ha avuto la possibilità di prendere la Sampdoria senza un grosso impegno finanziario. Questo è certo, cioè, i Garrone, ma questo non toglie nulla però. Assolutamente, cioè, assolutamente. Non è che, anzi, i Garrone avevano, come dire, speso in questi anni più di 200 milioni per mantenere la Sampdoria, la retrocessione, certe mancate qualificazioni in Champions hanno pesato, hanno ritenuto di cedere la società ad una persona dal loro punto di vista affidabile. Ferrero l'ha presa questa società, ha avuto anche degli immobili regati alla sede del club blu cerchiato, che comunque vale diversi milioni di euro, che c'è al centro di, certo, Genova, insomma, quindi è stato messo nelle condizioni di gestire al meglio una società. Questo primo anno di bilancio si è chiuso effettivamente con un rosso intorno ai 25 milioni, non a caso sono state fatte certe operazioni di calciomercato già a gennaio per tenere i conti in ordine. Sicuramente Ferrero non ha immense disponibilità finanziarie, ma deve gestire in equilibrio il club. Detto questo, insomma, prometto che appena avrò modo di entrare e leggermi. Comunque, quindi, se non ho capito male, di fondo diciamo che non c'è un impero economico, chiaramente, come quelli delle grandissime società, e quindi da questo punto di vista qualche incertezza ci può essere, ma non c'è neanche allo stato attuale, al di là del fatto che ti dovrei vedere bene i bilanci, un elemento oggettivo per poter dire che ci sia chissà quale rischio, no? Cioè, no, una gestione che dal punto di vista sportivo ha funzionato, dal punto di vista economico ha portato a un rosso. Che però insomma il rosso sappiamo che è lo stato naturale di moltissime società di calcio, e il fatto che non ci sia stato un ingente investimento all'inizio dell'avventura di Ferrero in realtà è un'opportunità, è come, no, quando tu compri una macchina usata a buon prezzo, certo, no? Molte squadre sono state comprate, Bari è stato comprato per circa, alla fine per 8 milioni, insomma, da una situazione fallimentare, quindi voglio dire, a quel punto dipende da chi lo gestisce, se ha la capacità di arrivare a produrre utili. Ecco, questo è il vero problema che si deve porre il tifoso sampdoriano, cioè se Ferrero, al di là della sua immensa simpatia, sarà in grado nei prossimi anni, al di là del fatto che questo bilancio era comunque un bilancio a metà, soltanto per metà imputabile alla gestione Ferrero, se nei prossimi 2-3 anni sarà capace di portare utili alla società. Certamente è una società che ha bisogno, se non ho capito male, per fare utili, del risultato sportivo, del risultato sportivo, cioè, non ci sono alle spalle, però poi c'è anche la possibilità nella vita di trovare dei soci, cioè voglio dire, non è che per forza uno deve, potrebbero anche entrare dei soci, non è per forza uno debba morire se non c'entra l'obiettivo Europa League o Champions League. Faccio un regalo al dottor Belinazzo, tifoso del Napoli, perché c'è Anna Trieste, nostra amica, collega, insomma punto di riferimento del web, che saluto. Buonasera Trieste, ciao. buongiorno ciao Anna. Ciao. Buonasera. Sì, però adesso è Radio 24, Radio Confindustria, capisco che tu sei partenopea al 100% e difendi il diritto. Ho detto sono Wagyu. Wagyu, e cominciamo Wagyu alla terza parola, qua arriva Barisoni, dice, ma che cos'è Wagyu? Già ci abbiamo i problemi dello spread. Tu sei esemplari di uomini. Sì, stai calma. Allora, questa offerta per Darmian, tu stai mettendo tutto, stai raccogliendo una serie di offerte possibili, perché la trattativa Darmian fra Cairo e il Napoli è complicata, un po' perché De Laurentiis è abbastanza complicato nelle sue trattative. A che punto siamo, visto che hai offerto una mountain bike col cambio Shimano? Com'è la situazione? Va detto che è complicato De Laurentiis, però anche Cairo, non è che, voglio dire, sta andando un po' in maniera esagerata. Quindi niente, noi abbiamo innanzitutto proposto, stiamo lavorando ad un'ipoteca sul Bastian Gioino, che mi sembra comunque un bene che possiamo offrire a Cairo, però abbiamo chiesto appunto alla Banca Centrale Europea se ci abbassa i tassi di interesse, perché abbiamo dei problemi. Quindi se riusciamo ad avere questo, però nel frattempo stanno arrivando un sacco di proposte, quindi io le sto valutando. Comunque per adesso quella che mi sembra più sensata è quella tipo di comprare, un Mascherano o un Benassià, prenderlo e poi offrirlo a Cairo insieme naturalmente a Zapata, Jorginho e il Cadurri, e poi anche il Cadurri, anche la signora Giacalini. Signora Giacalini no, è la moglie del presidente, mi sembra un piano. Noi comunque noi ci serve il difensore, quindi ho capito, a parte che in certe partite, tutto rispetto per Koulibaly, la signora Giacalini non so se avrebbe fatto peggio, penso a Empoli-Napoli, forse la signora Giacalini al centro della difesa. Belinazzo, come la vedi? Ti piace Darmian? Sì, mi piace. Chiaramente. Senti come ti scusa, due napoletani, Anna Trieste e Belinazzo. Sì, vabbè, arriva Wagyu e poi arriva Belinazzo. Vissuto... Sì, mi piace molto, devo dire, con fulgido esempio di attaccamento ai colori del Napoli. Prego. Vissuto... Ma lui può permettere, lui deve Belinazzo, sono le 24 ore, roba seria. Allora, Darmian, Marco, ti piace? Mi piace, chiaramente si sta un po' esagerando, insomma, con le richieste da parte del Torino, ma sembra che sia un calciomercato un po' esagerato in linea di massima, insomma, su tanti fronti in questo momento. Sì, lo è. In Italia. Darmian mi piace, è chiaro che il Napoli, insomma, io non ho ancora capito quello che si sta facendo. È un Belinazzo deluso, ma può amareggiare, c'è ancora, qui quel rigore. Senti, ma invece Trieste con Vasco Rossi, com'è il rapporto della città di Napoli con Vasco Rossi in questo momento? È stato riappianato lì il problema delle zolle, le buche? Ma lì il problema non è della città di Napoli con Vasco Rossi, lì il problema della città di Napoli col comune di Napoli e di conseguenza anche con De Laurentiis, perché in realtà ci sono tantissimi fan di Vasco Rossi che addirittura addirittura già stanno dormendo fuori a San Paolo, quindi in realtà il problema non è appunto per il concerto in sé, il fatto è che c'è un deficit di, chiamiamolo deficit di comunicazione tra il Napoli e il Comune. E quindi deficit di comunicazione, quando la Trieste parla come Belinazzo, deficit di comunicazione. Non posso dire un'altra parola, poi ve la dico in privato qual è il problema vero. Va bene, è tutto molto chiaro. Va bene, noi comunque sosteniamo la tua iniziativa, ricordiamo un'offerta per Darmian. Grazie. Quindi raccogliete, se volete partecipare. Io che posso io ho il badge dell'Expo. Possiamo dare delle magliette di Radio 24 qui all'Expo? No, ci servono giocatori. Giocatori, adesso. Ieri è passato Domizzi, però sta Udine. Guarda in tasca, non ne ho. Giocatori, vabbè, adesso. Però, scusami, se l'offerta era El Cadduri, Zapata, Jorginho, più soldi, cioè io glielo do. Ecco, ma invece su Mertens, più soldi. Quanti soldi? Quanti? No, quanti lui sono? Ne vuole 12 milioni di euro. 12 più questi? Ma Cairo c'ha la 7. Chiamiamo Cairo, dai, vediamo se accetta la proposta della Trieste. Adesso lo chiamiamo. Adesso lo volete, lo chiamiamo. Ha anche Desciglio, che è milanista, ci ha messo anche Desciglio, quindi volendo c'è anche Desciglio. Senti, ci proviamo. Lasciaci la vero dura. Senti, ma Mertens lo venderesti, Beninazzo? Soprattutto 14 milioni, ma che ci fai 14 milioni? Assolutamente no, ma mi sembra. No. Cioè, ma scusa, vendi Mertens a 14 e prendi Saponara a 16. Ma fammi capire. No. Qui c'è qualcuno che sbaglia i conti, voglio dire. Sbaglia a scrivere. È vero Trieste che Mertens fa le inversioni a U con il SUV nei quartieri spagnoli, cioè è diventato proprio napoletano. No, Mertens non si tocca. Io sono disposta veramente, gli accendo le basette a De Laurentiis. Non ce lo deve toccare, assolutamente. Metaforicamente, insomma, no, non vorrei. È ovvio, è una figura retorica, sì, indubbiamente. Non è un comportamento incendiario. No, però Mertens è uno di quelli che innanzitutto ha giocato meglio, ha dimostrato attaccamento alla maglia, diciamo, in questa stagione tribolata, e quindi proprio lui non si tocca. Quindi lavoriamo Mertens sull'altra fascia, quella là. Insigne non si tocca, perché Insigne non si tocca, Higuain non si tocca. Se volete lo potete toccare, lo possiamo toccare, non ci vale toccare Higuain, però il prezzo è molto alto, quindi direi inavvicinabile, e quindi Napoli è già fatto. E comunque posso dire una cosa, non voglio essere impopolare, ma Darmian costa perché è bravo, che è bravissimo, ma anche perché è dura Trieste. Va bene Trieste, grazie. Ti abbracciamo, tra poco Gianluca dalla provincia di Ragusa, magari chiamiamo Cairo. Berinazzo c'è ancora? No, volevo salutare Marco Berinazzo. No, Goal Economy perché oggi alle domani sera. Già giovedì 2 luglio, sono bollito dal caldo. Viale Montenero, Baldini e Castoldi, Goal Economy di Marco Berinazzo, ci saranno Beppe Marotta e Ernesto Paolillo. Ah? Viale Montenero 6, io Montenero sono 6. A Viterbo domani, quindi non ci posso essere, però vi seguirò con affetto. Ci chiedono anche dei conti dell'Inter. Io in 30 secondi, lo so che è impossibile chiedere a Berinazzo, ma te l'aspettavi un mercato così da parte dell'Inter dopo tutte le valutazioni e diciamo anche i rischi sul fair play finanziario, guarda, di cui si è parlato? Guarda, a questo punto mi fermo qui e rispondo con calma dopo, se me lo consentite. Ecco, fermati, ma certo, fatto benissimo. Intanto chiamiamo Cairo e vediamo se accetta il maschio angioino. Dai. Ci proviamo. Ehi, basta. A posto. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Nasce tutto il cibo del mondo. Da dove arriva il pomodoro? Chi sostiene la terra? Le domande dei bambini, le risposte degli scienziati. Da cibo a evoluzione, da spreco a sostenibilità. Le grandi parole di Expo raccontate ai più piccoli. Telmo, sei sicuro? Riusciremo a spiegare anche parole tipo biodiversità? Certo Federico, è la diversità degli animali e delle piante e ci sono un sacco di sorprese. Tu per esempio sapevi di essere parente della banana? No, però vabbè, se lo dice un filosofo della scienza mi sa che ci devo credere. Vi aspettiamo ogni domenica alle 9 con interviste, esperimenti, storie, filastrocche e tante curiosità. Con Telmo Pievani e Federico Taddia, Terra in vista, l'Expo come non l'avete mai visto. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Senti Angelo, è vero che non bisogna tenere i cani sul letto quando si dorme oppure farli salire sul divano? Non è sbagliato, al contrario di quello che dicono molti educatori cinofili, non lo è. Ma invece scusami, quello che si dice che bisogna essere il capobranco, il padrone deve essere... Ma che capobranco? E allora scusa, che il cane sente quando un altro c'ha paura? Questo è vero. Ecco, se avete dubbi della vostra vita assieme al vostro cane, gatto, pesce rosso, canarino, furetto, qualunque cosa vi volete chiedere, chiedimi se sono felice, è il programma che fa per te, dalla prima domenica di luglio alle 10 del mattino per tutti i prossimi weekend fino a settembre. Conducono Angelo Vaire e Rosetta Celentano. Scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Ricordiamo a tutti che per i prossimi 3 anni la Champions è in esclusiva di tutti i convocati. Sta roba. Ragazzi, giocano col sintetizzatore, ho scoperto questa cosa fantastica. Ce l'hai anche in inglese? Ready? Go. Remember all that for the next 3 years the Champions is exclusive of all summoned. Tutti convocati, tutti convocati. Recordemos todo lo que para los próximos 3 años los campeones es exclusiva de todos convocados. Todos convocados. Bueno, questo fa direttamente aeroporto, eh? Champions. Ah, questo è in turco, ma non si capisce, si capisce solo Champions. Tutti convocati. Va bene, salutiamo la comunità turca, l'ascolto bene. Allora, arriviamo lì, devo chiudere il discorso con Beninazzo sull'Inter, tornando seri. Storia. Beh, l'Inter ha una serie di vincoli dettati dalla UEFA per il fair play finanziario, ha una situazione diciamo di squilibrio che nasce da almeno 100 del bilancio 2014, vedremo quanto chiuderà questo bilancio. Ha fatto una campagna acquisti che oggettivamente mi ha sorpreso, così come ha sorpreso molti osservatori. È chiaro che servivano certi innesti, serviva un salto di qualità, serviva seguire le indicazioni di Mancini, perché si deve tornare in Champions assolutamente, pendendo peraltro un debito di 230 milioni insomma da onorare mensilmente, certo, con circa 20 però, milioni. Dire, questo vale per tutti, se poi il proprietario finanzia, capitalizza, il fair play viene aggirato. Non può sbaglio, farlo, no? Non può farlo oltre i 45 milioni, esatto, sul triennio. Quindi diciamo ti devi attenere a determinate regole, e una delle regole fissate dalla UEFA per l'Inter è che non doveva aumentare gli ammortamenti, che significa sostanzialmente che non doveva comprare giocatori troppo costosi che ti pesano, mettiamo con Gobià sono 7-8 milioni all'anno più 8 milioni di ingaggi, tra ingaggi e imposte, insomma sono 15 milioni su un bilancio complessivo di 200, capirete che è un bel impegno. Però è chiaro che il bilancio finale, visto che parliamo di conti, lo faremo a fine calciomercato, insomma, che oggi inizia ufficialmente, certo, e mi immagino insomma che saranno fatte operazioni per attenersi quantomeno alle indicazioni della UEFA. Indicazioni della UEFA, l'Inter adesso qualcosa dovrà mollare. Assolutamente. E qualcosa che valga, perché non è con 1 milione, 2 milioni o 3 milioni che puoi fare qualche cosa. Sì, poi bisogna vedere il gioco delle plusvalenze e minusvalenze, ma insomma il discorso è questo. Grazie Marco. Senti, allora domani giovedì, ore 2 luglio, 19 libreria, sì, Open a Montenero 6, Gone Economy. Si erano già accampati, sì, appena detto oggi insomma, a San Paolo. Esatto, voglio darvi una notizia di calciomercato. Lo Shang Shenhua ha comprato Dembaba per 16 milioni. Lo Shanghai Shenhua, squadra cinese, non a caso nel Goal Economy parlo della forza del campionato cinese, assolutamente, ha ribattuto al colpo del Guangzhou che aveva preso per 14 milioni Paulinho dal Tottenham. Vi ricordate Paulinho, sì, e l'Inter, quanto se ne è parlato? Ecco, sì, le squadre cinesi arrivano lì, staccano l'assegnino e portano com'è via il padiglione Cina campioni. Qui Margherita, sei stata al padiglione Cina? No, tu non stai qui, ferma con i cartelli, va bene. Comunque la Roma Roma ha venduto un bel pacco per 16 milioni, mica. Grazie Marco. A presto. Ciao. Luca, provincia di Ragusa. Ancora lì. Ciao Luca. Pronto, buonasera, volevo. Sì, pronto? Sì, sì. Grazie dell'attesa. Ah, volevo fare una domanda per Luigi Pante. Ciao. Volevo sapere su Super Milan quante possibilità ci sono che il Milan prenda sia Ibrahimovic, Luis Gustavo e un grandissimo difensore. Quante possibilità? Tutti e tre mi sembrano poche. Io credo che su Ibra ci sia un interesse caldo. Abbiamo forse anche una voce su Ibra, vero? Sì, Berlusconi. Di Pier Silvio. Chi ce l'ha? Margherita, adesso te la facciamo sentire. Ma insomma, il Milan mi sembra che, come diciamo dall'inizio del mercato, abbia cambiato completamente registro rispetto al passato. Quindi al di là del doppio flop, della prima doppia trattativa Jackson Martinez con Dogbia, poi in realtà i soldi ci sono e il Milan li sta spendendo. Ibra è un obiettivo. Oggi sulla stampa francese si parla di un Ibra comunque pronto al passo d'addio col campionato francese e col Paris Saint-Germain. Io non mi sorprenderei, no. E poi un altro acquisto verrà fatto sicuramente. Adesso poi tutti e tre quelli che mi hai detto, uno difensore centrale, Luis Gustavo, magari è tanto, ma secondo me il mercato del Milan non è finito qui. Ce l'abbiamo quella cosa lì? Sentiamo Pier Silvio Berlusconi. Sì, io penso che anche se di solito i ritorni non funzionano nel caso di Ibra per tonicità fisica, e per quanto mi riguarda, ma questa è un'opinione personale da tifoso, anche per quel suo carisma particolare che ha, può essere una grandissima eccezione. Quindi a me piacerebbe tantissimo vedere Ibra al Milan. Detto questo, non so, mi sembra complicato perché i soldi in ballo, al di là delle dichiarazioni, sono veramente tantissimi. Anche nel calcio il mercato italiano è troppo piccolo rispetto agli altri grandi paesi. Piccolo in questo periodo non sembra, però forse stiamo guardando tutto attraverso una lente di ingrandimento. Facciamo un salto in Coppa America per la semifinale che abbiamo visto la notte scorsa, vissuto la notte scorsa, l'Argentina che ha seppellito equilibrata, Paraguay, molto equilibrata, 6-1. Di Maria il fideo, levante il centro, sì, Agüero! Gol dell'Argentina! Centro perfecto del fideo, definición de Sergio, el cun cun cun cun Agüero, 5-1. Cae Messi en el área. Ahí va Ingol. Segundo tiempo, Gonzalo Pipita Higuaín, 6-1. E pensate che l'ultimo era il sesto, quello di Gonzalo Pipita Higuaín. Comunque 6-1, hanno segnato tutti, compresi Maradona e Kempes. Messi no, però Messi ancora all'asciutto. Allora, un'altra cosa curiosa di mercato riguarda Salah. Io saluto Enzo Bucchioni. Ciao Enzo. Ciao Enzo. Ciao a tutti, ben ritrovati, buon pomeriggio. Mi racconti la storia del tweet di ieri? Tu hai fatto un tweet scrivendo che il telefono di Salah non risponde, e questo hanno detto gli avvocati di Salah alla Fiorentina, sai, in un tavolo di trattative con un procuratore colombiano che vive in Qatar, appena rientrato dal Cile per la Coppa America. Insomma, un po' di confusione c'è, la Fiorentina ha detto: ma hai parlato col tuo ragazzo? No, gli ho detto: noi in vacanza non abbiamo il telefono è mutuo. se vuole per dialogare con lui dobbiamo mandare dei fax, abbiamo un numero di fax. Questo hanno detto gli avvocati alla Fiorentina. Sai bene, in una trattativa ci può fare di tutto, sembra essere un succo, questa trattativa va avanti a 10 giorni, e io ho detto questo, quello che è successo. Evidentemente, e ti ha risposto Salah? E mi ha risposto Salah, gentilmente, Salah anche con grande ironia, ha detto: ma sei sicuro? Io sono sicuro, perché lo dica ai suoi avvocati, che evidentemente usino delle strategie diverse di comunicazione o delle scuse più plausibili con la Fiorentina. Insomma, in una trattativa succede di tutto, le carte in tavola si cambiano continuamente, e ci sta anche di dire una bugia, magari il telefono è sempre acceso, non ho alcun dubbio. Io faccio il cronista, questo mi hanno detto le parti, questo riferito, comunque fa piacere. piacere che Salah mi legga, sia attento certo. alle cose che succedono in Italia. È un segno di successo, no? No. Essere seguiti. Sì, però ma di solito come alla fine come sta lì, no? Sta lì, sì, ma quando dicono quelli bravi, forse quelli che non contano gli avrebbe risposto. No, possiamo metterla un po' anche sul presupposto. Ma certo, ma è giusto. Beh, insomma, così è banalmente scrivere un tweet. Se adesso non voglio scrivere un tweet, se hai tanti follower, richiede comunque una responsabilità diversa che se hai quattro follower. Col grande rispetto lo dico, però, nel senso che se scrivi una cosa è possibile che venga ripresa, che tanta gente la legga, e qui è un dato proprio aritmetico, matematico. Per cui, insomma, da questo punto di vista, al di là della rimane lì, no? Alla fine, di curiosità. Sì, ti ringrazio. Rimane qua. Io ora lasciami una percentuale, perché sapete bene nel calcio cosa succede. Quello che vale oggi, domani è completamente diverso. Abbiamo visto cosa è successo al Milan, ma anche all'Inter di recente, tutte e due le società milanesi. Può succedere anche alla Fiorentina, ma oggi, se mi fai mettere la mano sul fuoco, ce la metto. E le parti stanno trattando, sono in un albergo milanese, finalmente hanno messo tutte le carte in tavola. E, tra l'altro, la Fiorentina ha già pagato il milione di affitto, quindi da oggi, 1 luglio, l'affitto è stato pagato e Salah è della Fiorentina. Se poi lui rifiuterà, andremo a vedere cosa succederà, le vie legali e quant'altro, però per l'anno prossimo il prestito è stato rinnovato. Grazie Enzo, ci sentiamo presto, andiamo di corso al prossimo tweet. Ciao a tutti, ciao. Andrea da Treviso, come va? Ah, benissimo, grazie. Volevo solo ringraziare Treviso città, convocazione. Treviso dove? Sì? Geolocalizzati. Treviso dove? Città o provincia? Montebelluna. Amico sì. di Aldo Serena. Certo. Perfetto. Certo, e penso si sente anche dall'accento. Si sente, sì, lievemente, ma insomma è piacevole. Prego. E quindi con Aldo Serena, un montebellunese, tifoso del Torino, che si ricorda ancora di Aldo Serena nella giornata del Torino, quindi c'è qualcosa. Cosa diciamo? Cosa ci racconta? Volevo dire che prima ho sentito l'intervento su Cairo, che si è accennato un attimo a Cairo. Io da tifoso del Torino, non da Torino, voglio dire che ce ne fossero altri come Cairo da questo punto di vista. Ma sicuro? Massimo, sicuro. Almeno per come sa tenere i conti a posto, questa sarebbe probabilmente la salvezza del calcio italiano. Inoltre con Darmian come si sta comportando, secondo me lo sta facendo perfettamente, perché deve giustamente, se Darmian va via, deve tentare di tirare il massimo. E questo farà in modo che Darmian non va via, per noi è ancora meglio. Ma no, ma poi lui l'ha sempre detto, l'ha detto mille volte, l'ha detto anche a noi Cairo, io non voglio vendere nessuno, se poi arriva il giocatore e mi chiede di andare via a tutti i costi, allora a quel punto io ci voglio voglio ricevere il giusto, quindi non serve credo il maschio Angioino o qualcos'altro. Il discorso Darmian vuole andare via, questo non lo sappiamo, il Toro vuole cedere Darmian, no, chiaro che stiamo giocando perché a Napoli c'è un po' di fibrillazione su questa trattativa, abbiamo giocato sull'ironia. Cairo sta facendo, vabbè, ma non è che non da questo momento sta facendo un grande lavoro. L'annata 2014-2015 per il Torino è stata trionfale, c'è stato il ritorno in Europa, c'è stata Bilbao, c'è stata comunque la qualificazione fino agli ottavi di Europa League, la vittoria del derby dopo 20 anni, addirittura è stato sfiorato nuovamente l'Europa. In tutto questo leggiamo che il bilancio del Torino è positivo. Insomma, qualcuno vorrà pure dire Cairo Braccino, ma ce ne fossero, no? Di braccioni così che stanno attenti alla gestione. Quindi ci sta il ragionamento. E poi sappiamo anche che il Napoli, dal punto di vista delle trattative, non è la società più semplice del mondo, perché un po' per il criterio dei diritti d'immagine, le caratteristiche proprio di De Laurentiis, il suo modus operandi sul mercato, insomma, la società che ci mette un po', ha dei tempi un po' lunghi, che tratta molto legittimamente, ci mancherebbe altro. Ma poi se Napoli vuole il giocatore, è giusto che Cairo, insomma, pagare moneta a vedere che sei mai stato a Wimbledon? Sono stato a Wimbledon nel 2001, bellissimo, meraviglioso, ma una cosa stupenda. Pensa Vincenzo Martucci che pensa a introdurre la cacio e pepe a Wimbledon, sarebbe la perfezione fatta. Chiediglielo un po', Vincenzo. Martucci, buongiorno, come va? Ciao, Vincenzo. Bene, voi? Bene, bene. Benissimo. Noi Expo 2001 è stata una data importante, un anno importante. Sì. Ha vinto Ivanisevic, insomma. a 20 Vanisevic, uno di quegli anni che non si può dimenticare. In finale con uno dei grandi perdenti del tennis moderno, Pat Rafter. L'australiano. Ma mi sa che non era il 2001. Non si è andato nel 2001. Non mi ricordo niente. Ho sbagliato. È abbastanza inquietante questa cosa. Adesso hai mangiato troppe fragole. No, mi ricordo. Guarda, mi ricordo che intervista io, facevo altre cose, non facevo tennis, stavo lì, facevo dei pezzi di colore. Un giorno intervistai Federer, che era un ragazzo di belle speranze. Era già importante, ma non era. Vabbè, e giocava comunque, servizio, giocava servizio. Esatto. Quest'anno che succede lì? Succede che noi speriamo sempre che il nostro Federer faccia miracoli. Non ha neanche un brutto tabellone, ma certo a vederli battere questi qui c'è una potenza adesso che povero Federer non so quanto riuscirà al meglio di 5-7 a andare avanti. È una bella battaglia. Io vedo molto bene questo Raonic che si è ripreso dopo un problema al piede, gioca questo torneo e serve come un pazzo, ragazzi, c'ha una potenza Raonic che è da guardar bene. Il mio favorito è Murray e vediamo che succede. Altro discreto perdente, se mi consente. Sì, però adesso lui ha cominciato a vincere, perché non dimentichiamo che Murray comunque ha riportato un britannico nell'Alto d'Oro di Londra. Si è tolto la scimmia. E poi dopo ha vinto anche l'Olimpiade e sempre a Wimbledon, quindi insomma ha vinto US Open, quindi la scimmia si è tolta davvero. Adesso poi con questa donna, sai, essere guidato da una donna ci dà, anche se noi le contestiamo sempre donne, però ci dà sempre una cosa in più, no? Lui è allenato dall'amore Smo. Sì, in dolce attesa, abbiamo visto. Con l'aiuto di Bjorkman, che è uno dei giocatori più intelligenti che ci siano stati sul circuito, non un fenomeno, ma una persona molto intelligente che lo aiuta nel servizio volé. Quindi secondo me Murray quest'anno ha qualcosina in più, anche perché io sinceramente in Djokovic non credo tanto, sbaglio, perché più che altro io credo che poi nei momenti importanti a lui gli vengano i nervi e spesso gli succede, poi, perché gli succede negli ultimi anni a Roland Garros è successo. E sull'erba, sai, ci sono tante cose strane che possono accadere, sai, questo rimbalzo strano, le zolle. Sì, è il mio torneo preferito in assoluto. È strano distacco. Come torneo. Sono stato anche nel 96, ho scoperto questa cosa, che è il motivo per il quale mi confondevo, perché mi ricordavo Washington in finale. Washington è finale più brutte. Poi, la cosa più bella di quella finale fu con che entrò in campo, esatto. Non mi ricordavo benissimo il punteggio della finale del 96, però mi ricordavo questo momento straordinario. C'era qualcosa da vedere, bellissimo. Invece sì, 2001 appunto, Ivanisevic contro Rafter. Un'ultima cosa per le signore invece? E le signore, sai, io ci metterei qualcosa, ma non posso scommettere, sai che i giornalisti non possono scommettere, che Serenona vince pure questo e poi va a New York per chiudere il Grand Slam. Se lo meriterebbe, obiettivamente sull'erba con quel servizio, se le cose vanno normalmente, io non vedo chi possa contrastarla. Sì, Kvitova, però Kvitova è talmente matta e poi Kvitova ha dei grossi problemi così di respirazione, sai, con l'erba non è il massimo, lei ha problemi di asma, è un'ottima giocatrice, ha vinto due volte Wimbledon, è la campionessa uscente. Kvitova mi ricorda per tante cose Martina Navratilova, fatte le debite proporzioni, Mancina e cieca, però se sta bene Serena vince, ecco. Grazie Vincenzo, arrivederci. Ciao, a presto. Con grazie Vincenzo per avermi ricordato quella cosa. Forse la cosa è quella l'invasione di cancer. E poi incontrai Mary Pierce al supermercato dietro Wimbledon. Davvero? Stava comprando gli yogurt. Era alta. Io volevo dichiararmi subito. Poi noi siamo a me Wimbledon rimanda le finali. Borg, McEnroe, eccetera. Qui siamo rimasti legati da ragazzini. Quindi domani non vieni a trovarmi qui. Domani vado a Viterbo a Caffeina, ma ci sentiamo. Sì, durante il viaggio con il mio telefono, che insomma si sa, siamo a posto. Prende benissimo. E venerdì ci sentiamo da Perugia, perché c'è la prima edizione del Festival del Calcio a Perugia. Saranno tre giorni interessanti, magari cerchiamo anche di sentire. Ospiti, no? Sì, molti ospiti legati al mondo perugino. Per esempio c'è Walter Sabatini, ci sarà una celebrazione in Perugia di questi anni, poi molti giornalisti, insomma una bellissima iniziativa, mi fa piacere partecipare. E poi domenica ovviamente c'è la puntata da qui di tutti i convocati weekend. Senti, fammi un pronostico, come finisce la Coppa America? Argentina-Cile. Per me vince l'Argentina anche tanto a poco. 22 anni, 8 anni dopo l'ultima finale, 22 anni che l'Argentina non vince la Coppa. Tu sei sempre mezzo argentino, no? Io sì. io sì. ho questo morbo qui e che vuoi fare? Io ti farò Cile perché se per ti fare il più debole, ma credo che insomma l'Argentina sia la squadra più forte, la squadra più forte, quindi da questo punto di vista. Abbiamo ancora due minuti, quindi abbiamo ancora 800 24 00 24. Nel frattempo succedono delle cose, arrivano dei messaggi, tipo un amico da Roma ci dice: era troppo esoso per Darmian in Napoli che vuole 95 per Higuain. No, ma, certo, ma non è, ma l'ironia, questo, ragazzi. Rispondo al 3475 Anna Trieste, che è un'amica napoletana con questi tweet molto coloriti, ha giocato sulle cose che a Napoli potrebbero vendersi per comprare Cairo, sì, una piramide per comprare Cairo, per comprare Darmian. Cairo fa chiaramente il suo gioco e Darmian, sulla valutazione di Darmian siamo tutti d'accordo che deve essere alta perché è un grande giocatore, quindi insomma il Napoli farebbe bene secondo me a non svendere a 14 milioni Mertens, a venderlo bene, ma Darmian va pagato e va pagato il giusto sicuramente, perché è un giocatore che ha dimostrato sia al Torino che in nazionale di essere fortissimo, di essere una realtà. Io continuo a pensare che insomma molti giochino anche sull'effetto Sarri, lui vuole trequartista, non gli servono molti esterni, sì, sì. Napoli ha molti esterni perché quelli li volevano Benitez, quindi sai, sono tutti lì a dire: ah, Martens non lo vuoi più, allora dammelo per quei soldi lì. Poi ti ripeto, secondo me c'è una sproporzione tra la valutazione Di Condobbia per esempio, di Condobbia, o di Bertolacci e quella di Mertens, oppure leggo quella di Saponara, di Saponara a 16 milioni. Dopo Bertolacci la Roma sta per cedere Romagnoli, da molti detto il nuovo Nesta, uno smantellamento vero e proprio. Da romano e romanista dico a Sabatini: vergognati. Ecco, la tocca piano Roberto, nostro ascoltatore. È da vedere, se Romagnoli andrà via, e bisognerà anche capire poi insomma a che tipo di valutazione. Sulla filosofia in generale sono d'accordo, cioè Romagnoli è un giocatore di Anzio, è un giocatore che sta facendo benissimo, quest'anno la Samp l'ha dimostrato, è un patrimonio della Roma, quindi insomma prima di darlo via certamente ci devono pensare mille volte. Tanto andiamo via noi, perché adesso arriva il Falco e il Gabbiano. Non è più solo una trasmissione, è un gruppo di lavoro, un gruppo di amici, molto consistente, nutrito dovrebbe da dire. Tra l'altro puntata dedicata a Carlo Petrini, la Cassandra del calcio, quindi insomma se siete, e probabilmente lo siete, appassionati di calcio, un motivo in più per seguire il Falco e il Gabbiano del grande Enrico Ruggeri. Grazie, appreviato, eccezionale Margherita. Ciao a tutti. Basta, sei casato. Margherita Aina, che è qui con i suoi cartelli, Giorgio De Luca che è in Monterosa, Giovanni Melchiori, Ferronato, tutti quanti. Allora, ringraziamo anche il direttore. Grazie a tutti, anche a quelli che ci verranno a trovare. Barisoni, non lo ringraziamo. Anche Barisoni, Cruciani, quelli che verranno a trovarci a Expo domani. Essere benessere, non me lo saluti? Ciao a tutti. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale.